Allora, buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione con l'El Torah di Chassidut. Oggi continueremo ad approfondire il discorso che abbiamo iniziato lunedì. Prego, prego, accomodati. Che abbiamo iniziato lunedì, dove abbiamo parlato della importanza dell'umiltà nel momento in cui affrontiamo lo studio della Torah. Tratta questa idea proprio dalla umiltà che è stata dimostrata nel momento in cui HaKadosh Baruch Hu ha deciso di donare la Torah sul monte Sinai, che da una parte è un monte e dall'altra è un monte basso. E abbiamo citato e approfondito questo aspetto. Abbiamo detto che bisogna essere come un deserto per poter acquistare la Torah. Chiunque ha in sé troppa è troppo grezzo, è troppo rozza come persona, cioè nel senso che non si è raffinata, che non si è messo un po' da parte il proprio ego, allora non può essere un recipiente idoneo per trasportare in sé e per portare in sé la parola di Hashem, la parola della Torah. Di conseguenza abbiamo parlato e approfondito il discorso della umiltà nell'affrontare appunto ciò che Hashem vuole da noi. Allora ci siamo posti la domanda: perché serve il monte? Perché non dare la Torah nella valle? Se l'intento qui è per indicare con questa scelta di luogo non solamente una scelta banale, ma una scelta pensata perché possa fungere da lezione fino ad oggi per noi, l'esempio che si vuole trarre da lì, allora avrebbe dovuto essere un luogo più basso. Abbiamo detto il monte ci insegna qualcosa perché è un monte basso. Ok, allora togli il monte, sarai ancora più basso. Ovviamente bisogna stare su una posizione alta per comunicare qualcosa, quindi questa domanda non è una domanda tecnica. La domanda in realtà è una domanda retorica per dire cosa si impara a livello del nostro percorso dal fatto che invece è sì elevato almeno fino a un certo punto. E vedremo che c'è un grande significato in questo. La domanda è espressa nei seguenti termini. Achzarich lehavin, bisogna però capire. Imken, se è così, come abbiamo spiegato finora il concetto dell'umiltà, lama haya shum har, perché allora c'è stato un monte? Sheharigam har Sinai, poiché anche il monte Sinai, nonostante fosse appunto basso, harei Huhar al Kolpanim è comunque un monte, è comunque quindi un'altura. Shehu inyan Agba'a, che è il concetto di elevatezza. Akshei no gavoa kol kach, solamente non è molto alto, ma è comunque alto. E quindi ora entriamo nella spiegazione. Aval ha'inyan, il concetto che si vuole trasmettere qui è il seguente. Chi beemet, in realtà, im heyot, nonostante, shezarich kol adam liot shafel bemeod, nonostante che ogni persona dovrebbe cercare di essere molto umile, non solamente semplicemente umile, ma ognuno dovrebbe cercare di essere il più possibile bemeod, molto umile, mikol makom, tuttavia, tzarich, è necessario di avere hitchazkut, un po' di, qui c'è la parola chazak in questo termine che abbiamo detto adesso, quindi un po' di forza, vekzat hagba'a, e un po' di elevatezza, elevarsi un po', non in presunzione, ma ora vedremo in che maniera. E lo facciamo citando un versetto tratto dal libro di Cronache, dal Divrei Hayamim, dove è scritto che Moshe Katuv vaigba libo bedarkei Hashem, che tradotto letteralmente significa innalzò il suo cuore nelle vie del Signore. Di cosa stiamo parlando? Allora, solo per dare contesto a questa citazione, il libro di Divrei Hayamim, le Cronache, che passa attraverso le generazioni da Adam Arishon, quando parla dei vari re che sono stati in Yehudà, il regno della casa di Davide, allora si parla di un certo re, Assa, che era un re malvagio, nel senso che non seguiva quanto è scritto sulla Torah, quanto è voluto e spiegato dai Chachamim, quindi c'era idolatria, c'erano tante problematiche, eccetera. Ma poi, quando morì, l'erede al trono, che prese appunto il suo posto, Josafat, era invece un re degno di essere chiamato un re ebraico, seguendo la volontà di Hashem, di nuovo instaurando un regno basato sulla Torah. E nel descrivere questa cosa, il versetto usa questo termine che abbiamo appena usato, cioè Vayigba libo bedarkei Hashem. Lui era fiero ed era forte nel suo cammino sulle vie del Signore. E il termine che si usa, Vayigba, significa letteralmente essere elevato. Uno che è elevato di cuore è un modo di dire in ebraico presuntuoso, si potrebbe anche tradurre così. L'elevatezza del cuore significa io sono speciale, io sono particolare, quindi indica una certa presunzione. Ma la seconda parte del versetto ci chiarisce di che tipo di presunzione stiamo parlando. Presunzione sulle vie del Signore, cioè sono geloso delle vie per il Signore in un certo senso. Non sono geloso, non sono lì a curare i miei interessi, ma sono forte nel curare gli interessi della Torah, per così dire. Quindi è una presunzione in un certo senso, cioè un porsi in maniera più elevata rispetto agli altri, tra virgolette, ma non per un interesse personale, bensì come portatore di un messaggio più grande di sé. Cosa sta dicendo qui il Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman, in questo suo discorso? Sta dicendo che per seguire una via retta, per seguire una via corretta, se ci fosse solamente l'umiltà, la persona si abbatterebbe. Cioè sarebbe forse troppo umile la persona, fino a non avere quella spinta, quell'ambizione per spingere, per perseverare anche alla faccia di difficoltà e di prove, e di ostacoli e di distrazioni e così via, perché l'umiltà potrebbe rendere la persona troppo moscia, troppo debole. È come se praticamente sì. Se la Torah mi chiama ad assumermi delle responsabilità, io mi rendo parte attiva per far fronte a tutte queste responsabilità. Esattamente, perfetto, Leone, tu dici in maniera molto chiara, la Torah ti chiama ad assumere delle responsabilità e tu ti rendi parte attiva, non solo passivamente, esattamente questo è il discorso. L'umiltà potrebbe essere identificata con una esagerata passività, invece la Torah ti chiama a prendere parte attiva. Quindi ti serve quella spinta interiore, quell'ambizione appunto che uno non la definirebbe umiltà, ma è qualcosa che è necessario per spingere tutto il tuo cammino. Quindi qui c'è un equilibrio da rispettare, perché da una parte, come adesso vediamo nel testo, leggiamo un'altra riga, chi im lo yiyeh se la persona non avesse alcun elemento di questa, per così dire, elevatezza dentro di sé, questa ambizione, questa forza, allora lo yarev li bola geshet lavoda, a quel punto non troverebbe la sicurezza dentro di sé per avviarsi sul cammino, per servire Hashem. Be omro, perché direbbe tra sé e sé: Mianochi, chi sono io? Non sono nulla. Umma avodati, e che senso ha il mio servizio? Cioè, se io sono così umile e io riconosco davvero il fatto quanto insignificato potrebbe essere il mio contributo rispetto alla creazione, rispetto a tutto ciò che è Akadosh Baruch Hu vuole, rispetto ad Akadosh Baruch Hu stesso, io servo Akadosh Baruch Hu, ha forse bisogno del mio servizio? Assolutamente no, sono neanche una mosca nei confronti di quello che è il mio servizio davanti a Cosborough, non è niente. Allora questa umiltà farebbe sì che la persona non agirebbe, si tirerebbe indietro e direbbe: io non sono degno, io non sono a livello di partecipare in questo senso, non sono nessuno per pormi davanti ad Akadosh Baruch Hu, oppure per mettermi su una certa strada o su un certo tipo di cammino. E questo in realtà non è niente di mistico, non è niente di occulto, è un sentimento estremamente comune e naturale che si avverte molto spesso nella gente, anche parlando così con la gente, si avverte spesso questo tipo, forse in altre parole, espresso forse in altre parole, ma si avverte questo tipo di discorso. Quando chiedi o sproni qualcuno, perché non metti tefillin più spesso? Perché non vieni Shabbat più spesso? Perché non fai lezioni di Torah, eccetera? Allora c'è questo sentimento, come dire, io ancora non sono a livello, io sono... sono in una strada che ancora non è giunta a questo punto, perché non mi sento di essere, di riempire questo ruolo, di essere degno di questa posizione. È qui che dovrebbe subentrare l'opposto della umiltà. È qui che dovrebbe subentrare questo elevarsi sulle vie del Signore, che potrebbe essere un motore per spingere la persona sulla strada voluta dalla Torah. E per questo motivo, la chenza richlo hagba'at alev, per questo motivo serve questa ambizione, questa forza del cuore, questa forza della persona, questa fermezza, e si parla proprio del cuore perché richiede anche un sentimento, bichukà, un desiderio, ve'atzima onshebo, prendendo in considerazione la sete che c'è nella propria anima, nel proprio cuore, per ciò che è voluto, per ciò che è dovuto per la Torah, c'è una sete, c'è un desiderio che a volte viene soppresso a causa appunto di una esagerata umiltà. E allora, che idea ci siamo fatti ora di questo elemento che sarebbe considerato l'opposto della umiltà? Quello di invece dare importanza al proprio cammino, dare importanza alla propria presenza, alla propria posizione, alla propria situazione, e dire: no, io non sono qualcosa che non vale nulla. Invece ho una missione, è richiesto da me comportarmi in una determinata maniera con le altre persone, con la famiglia, con Hashem, eccetera. E non sono troppo umile per dire: ragazzi, questo riguarda persone di un certo spessore, eccetera, eccetera, magari i grandi tzaddikim, magari i profeti e così via. Viene la Torah e ci dice: no, è rivolto a ognuno. Il monte è comunque un monte, è umile, ma è un monte. E la domanda che ci si pone subito è: qual è la percentuale? E cioè, quale delle due, tra l'umiltà e la fermezza, l'importanza di sé, la sicurezza, l'autostima propria, eccetera, quali delle due prevale? Quali delle due è presente in maniera maggiore rispetto all'altra? E i maestri spiegano, e lo citerà qui, che l'umiltà deve essere maggiore. Cioè l'opposto dell'umiltà deve essere presente perché ci sia un motore, perché la persona non sia totalmente debole e passiva. E quindi ci deve essere questa spinta. Ma è come dire, quando tu avvii la tua autovettura e la metti nella prima marcia perché ti serve quella forza per avviare il cammino, la prima marcia serve solo per pochi secondi. Poi bisogna trovare una marcia più comoda, più idonea alla strada che devi fare. Ma quella forza lì, che tira proprio molto fortemente, è necessaria, ma è necessaria in una minima misura. Una riflessione potrebbe essere il fatto che il monte legato alla Torah, okay? Mm-hmm. Un monte che può essere scalato da tutti. Molto bene. Anche questa è una riflessione bella. Che comunque può essere scalato da tutti, nel senso che è un monte che sì. Non è troppo alto, per cui può raggiungere È una chiunque. bellissima riflessione, voglio condividere con il pubblico che sta anche seguendo virtualmente. Andrea dice che il monte, che però è un monte basso, quindi il monte Sinai è un monte, ma è un monte basso, indica che è un monte che può essere conquistato da ognuno. Chiunque può raggiungere la vetta di questo monte, non bisogna essere un professionista per scalare l'Everest, ma bellissima riflessione, grazie. Molto bella. E comunque, quindi, tornando qui, in base a queste ultime indicazioni che abbiamo visto, i maestri appunto dicono che un Talmid Chacham, una persona che si avvicina alla Torah e studia la Torah, rispetta le mitzvot, eccetera, si pone l'enfasi molto molto fortemente sull'umiltà, sul mettere il proprio ego da parte, e però il Talmud dice non in maniera totale e assoluta. Un Talmid Chacham ha bisogno di avere un ottavo di presunzione, quindi una minima misura, molto molto minima, ma deve essere presente. Sì. Più che presunzione, io la chiamerei consapevolezza, e mi spiego. Kadosh Baruch Hu sta facendo tutto questo per noi. Sì. Quindi è chiaro che ci dobbiamo mettere nelle condizioni di riceverlo. Se ho un ruolo passivo non lo prendo. Allora non fai mai, nulla. Ma solo con consapevolezza che qualcuno mi vuole donare qualcosa, devo fare un passo in avanti. Benissimo, benissimo. Quindi questa presunzione la possiamo in realtà chiamare una consapevolezza, una profonda consapevolezza, un riconoscimento del proprio ruolo. Esattamente. Assolutamente, sono d'accordo, attivo è molto meglio di presunzione. Senso. Attivo nel senso, io faccio un passo avanti. Tu mi vuoi donare, io attivamente prendo, ricevo, metto in atto, perché riconosco e entro in quello che è il ruolo che è stato preparato per me. Se io fossi in una situazione di umiltà totale, allora non mi farei avanti. Esatto. Rimarrei sulla mia posizione e non mi farei avanti. Qui invece si richiede di farsi avanti, ma che quel farsi avanti sia appunto, ripeto, il motore per questo movimento, per questo muoversi, per questa crescita, ma che la crescita stessa sia con quasi assoluta umiltà. E quindi abbiamo questo tipo di paradosso: il monte che è appunto un'altura, ma al tempo stesso è un monte basso, per indicare appunto questa duplice modalità di porsi, da una parte con una grande umiltà, dall'altra parte con una grande spinta, con una grandissima ambizione, riconoscendo appunto, avendo la consapevolezza, questo può diventare e deve diventare una spinta nella direzione giusta. E quindi in questo senso abbiamo di nuovo il Monte Sinai, che viene elogiato, tra virgolette, prendiamo lezione dal fatto che è basso, ma al tempo stesso che è comunque un monte. E la prossima volta approfondiremo per capire qual è il ruolo della simcha, della gioia, della contentezza, nell'aiutarci a creare una sorta di fusione tra queste due esperienze che possono essere contraddittorie, e vedremo come la simcha può essere una soluzione. Vi auguro una buona giornata, alla prossima lezione. Mi viene in mente una cosa.